9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì martedì 25 maggio. Cominciamo bene, se sbaglio la giornata. Avete capito che è una giornata che comincia con un segno un po' singolare, un po' negativo dopo la chiusura oltre 3 punti persi dalla piazza di Tokyo. Avete sentito le ultime notizie della borsa, continueremo a prestare orecchio a quello che succede in borsa, perché è evidente che un andamento della giornata nel mercato finanziario italiano così negativo non potrebbe, a mio modesto giudizio, che portare nuova acqua per confermare quell'allarme che molti hanno ritenuto e forse continuano a ritenere alcuni nella politica italiana ingiustificato, quell'allarme, dicevo, che ha invece spinto alle decisioni che verranno assunte oggi in Consiglio dei Ministri. Decisioni pesanti, perché con la legge di stabilità che il governo italiano ha preso la buona abitudine di definire a giugno e non più solo aspettando a dicembre in ogni finanziaria, con questo quadro triennale di aggiustamento dei conti pubblici che è più coerente con la necessità di avere tempi più ristretti rispetto ai mercati, si interviene per 24 miliardi di euro. Lo sapete, trovate sui giornali le ultime anticipazioni. Bisognerà vedere dal Consiglio dei Ministri come usciranno definitivamente alcune delle manovre, dei pezzi della manovra più delicati, ma insomma in questi giorni si è più o meno capito che cosa ci aspetta. Il Corriere della Sera e altri giornali in questi giorni, solo 24 ore più di tutti, hanno diffuso molti particolari sulla manovra. Ci sono alcune incertezze sui tagli, per esempio, ai finanziamenti ai partiti, però in definitiva il più si è capito, e si è capito il fatto che il ministro Tremonti è riuscito, malgrado freni, resistenze, dubbi anche politici, anche da parte del premier nei suoi confronti, per un eccesso di allarme, per manovre che nel campo fiscale, nella lotta al recupero dell'evasione e dell'elusione, sembrano tornare ad avere un segno, quello dell'odiato Vincenzo Visco, per capirci, e per tanti motivi, insomma, improvvisamente aver capito quello che Giulio Tremonti diceva da qualche mesetto, e cioè che questa crisi dei debiti sovrani europei obbligava tutti, non solo la Grecia che aveva mentito, a mettere mano a finanza pubblica aggiuntiva, come avviene persino per la Germania, che corregge di 10 miliardi, annuncio di Schäuble ieri, strutturale il suo deficit tendenziale. Beh, tutto questo cambia un pochino le coordinate politiche. Bisognerà vedere quanto di questa cosa poi in finanziaria sopravvive. C'è una resistenza molto forte, per esempio, a contributi che hanno un significato più che altro simbolico, come il taglio ai dirigenti pubblici che guadagnano oltre 80.000 euro e che vedeva i parlamentari di Enel Vicini Affini assolutamente contrari, come se non fosse invece una delle misure che danno più equità, sia pur simbolicamente, al recupero dei denari. Il più del recupero dei denari viene, come evidente, soprattutto dalle nuove misure fiscali, soprattutto dalle nuove misure, non sarà un condono, è una regolarizzazione, ma di quasi 2 milioni di unità immobiliari che continuano ad essere fuori regola, malgrado il condono di pochissimi anni fa non applicato in Campania. Per quello che riguarda gli statali, confermato la mancata corresponsione degli aumenti dell'ultimo contratti e invariati gli organici, per le pensioni dimezzate le finestre, quindi niente di strutturale, perché si tratta di soldi semplicemente che non vengono dati nei prossimi 3 esercizi, ma poi quando si riapre tutto a diritti maturati, sia l'aumento del pubblico impiego sia naturalmente il numero di rapporti previdenziali aumenta, quindi sono misure non strutturali ma che migliorano strutturalmente il deficit nei prossimi 3 anni, lotte contro i falsi invalidi, alcuni enti come l'ICE, Commercio Estero e l'ISAE che scompaiono, e alcuni enti previdenziali minori accorpati nell'INPS e nell'INPDAP. La cosa seria, direi, dopo la parte che riguarda il fisco è quella che riguarda i risparmi agli enti locali, che sono pesanti, perché ci sono 10 miliardi tra regioni e comuni nei prossimi 3 anni di taglio strutturale delle dotazioni, un anticipo per così dire, però questa volta orizzontale più che in base alla qualità dei servizi offerti del federalismo, ed essendo orizzontale ovviamente fa un po' a pugni con il federalismo in via di essere adottato. Segnalo in conclusione, perché non ho nessuna intenzione di levare spazio agli ospiti e alla vostra opinione, che tra le sorprese positive c'è l'IRAP zero per le nuove iniziative imprenditoriali del Mezzogiorno. Mi sembra una cosa dalla quale potrebbero venire buone cose dopo anni in cui la parte di incentivi al sud a fondo perduto ha continuato a rappresentare più o meno i 2/3 degli oltre 6 miliardi, quasi 7, di contributi dati alle imprese nel sud. IRAP zero per nuova impresa può essere una via, perché il sud aiuti il sud, da capire come funzionano alcune questioni che interessano molto molto le imprese, come il pareggio del debiti crediti del conto fiscale con lo Stato. Si è parlato ieri di un tesserino magnetico col quale verrebbe incardinato un rapporto nuovo per tentare di colmare questo intollerabile atteggiamento dello Stato, che tende a chiedere tutto e subito quello che riguarda i propri pagamenti fiscali a lui dovuti, ma invece poi non paga per mesi, e nella sanità addirittura per anni. Questo potrebbe essere, dal punto di vista del dare e dell'avere fiscale, un sistema. Probabilmente è stato pensato anche per dare questo tesserino magnetico, per verificare poi meglio all'interno del periodo di bilancio delle imprese come si va in credito fiscale, sempre per questa strategia di intensificazione molto forte della lotta all'evasione, di cui vedremo oggi in Consiglio dei Ministri, e ho concluso, se poi la nuova soglia per la tracciabilità, cioè per non usare contanti eccetera, dove viene messa, dai 12.500 dove era stata posta, rialzata dopo Visco, se scende a 7.000, a 5.000 o addirittura, come alcuni continuano a scrivere oggi, a 3.000, perché ciascuna di queste soglie è inevitabilmente una diversa soglia di autosmentita di quello che il centrodestra aveva detto rispetto alle misure del famigerato e odiato Visco. Parentesi, la mia opinione personale, cari ascoltatori, è che tutto ciò che lotta contro l'evasione, che non passa per abbassamento delle aliquote, è sbagliato. Questa è la mia opinione, vado contro tendenza. Sapete che su questo sono una pecora nera. Il basso tasso di evasione fiscale, leggetevi pagina 2 e 3 sul giornale di oggi, sappiamo perfettamente dov'è per quello che riguarda l'IVA. L'IVA sono tra i 40 e i 50 miliardi di imposta evasa ogni anno in Italia. Si può curare meglio con adesione spontanea all'ordinamento quando si tratta di grandezza di quell'ammontare. Capisco che quando si tratta di recuperare deficit e migliorare i saldi, dare grandi botte in termini di durezza e manette tintinnanti può sembrare la cosa migliore. La novità è che questa volta vengono molto coinvolti i comuni, gli si dice terrete il 33% di tutto ciò che darete una mano a recuperare, sia per dal punto di vista fiscale che contributivo all'erario. Può essere una buona cosa, però insomma io preferirei aliquote più basse, che ancora qua non si vedono né si vedranno probabilmente per lungo tempo. Gli ospiti di oggi, io sto zitto, voi chiamate all'800 24 00 24, diteci come la pensate su questa manovra, qualunque di questi aspetti vi colpisca o non vi colpisca, equa non equa, come ha detto il capo dello Stato, vi colpisce nelle tasche, non ve lo aspettavate, Berlusconi tradisce la sua parola, Tremonti si è davvero montato la testa, insomma diteci come la pensate. Io sto zitto, gli ospiti sono intanto Alessandro Barbera, collega giornalista della Stampa che segue da passo passo ogni finanziaria da anni. Buongiorno Barbera. Buongiorno. E Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, che con equilibrio e saggezza, diciamo oramai da un po' di tempo, anche lui vede tutto ciò che della finanza pubblica viene promesso e il meno che di solito viene realizzato. Grazie Gentili. Buongiorno. Buongiorno. Allora, comincerei chiedendo un'opinione a Barbera. La cosa che l'ha colpita di più inaspettata di questa manovra è quella che politicamente cambia forse un pochino di più il quadro. A suo giudizio, quali questi due elementi, quali indicherebbe? Ma certamente, vista la manovra un po' scomposta, a questo punto devo dire mi ha molto colpito ieri fare i conti della serva di quanto a quanto ammontano i tagli. Cioè, questa manovra è quasi per 20 miliardi fatti i tagli alla spesa, 10 miliardi circa verranno da comuni, regioni e province. È una manovra durissima. Il governo Berlusconi, credo, in 16 anni non ha mai fatto una manovra di tale entità. Quindi bisogna dire, da questo punto di vista, se questo era l'obiettivo di Giulio Tremonti, non c'è dubbio che Tremonti esce vittorioso da questa partita. Quello che rimane da capire è se effettivamente questa manovra non avrà effetti depressivi, perché il rischio quando una manovra è così pesante c'è, soprattutto in una fase di così bassa crescita, e resta altrettanto da capire se questo sarà compatibile, come mi pare di capire Tremonti stia cercando di fare, con la costruzione del federalismo fiscale, perché non voglio credere che regioni, province e comuni accettino tagli per 10 miliardi non avendo in cambio nulla. In cambio hanno avuto sbloccato, si è letto, 500 milioni di quelli che lamentavano per l'anno in corso e l'anno precedente di minori coperture ancora rispetto all'abolizione dell'ICI e patto di stabilità, almeno questo è quello che abbiamo letto, poi vedremo come funziona il provvedimento. Gentili, la stessa domanda a lei: che cosa l'ha colpita di più, cosa politicamente promette di cambiamento in più? Quello che l'ha colpito di più è nella manovra, e l'elemento politico invece potrebbe essere nel futuro. Oggi lo vedremo nei dettagli che cosa consiste di preciso questa manovra. Mi sembra al momento di poter dire che ci sia un po' di tutto, quindi provvedimenti nuovi, provvedimenti old style, perché poi tutto questo discorso del taglio, del contenimento della spesa, sono almeno 10 anni che li vediamo riproporsi, blocco del turnover e il contenimento della spesa degli enti locali, sono sempre stati provvedimenti che poi in qualche modo sono stati aggirati. Certo, non dobbiamo meravigliarci di nulla, perché questo sta accadendo in tutta Europa, i tagli sono in Germania, sono in Francia, sono in Spagna, sono in Gran Bretagna, quindi di questo non dobbiamo meravigliarci. Quello che a me preoccupa come questo si sposa con la volontà ripetuta anche questa da molti mesi di voler far crescere il sistema Italia. Per ora abbiamo la fase, come al solito, la fase 1, cioè quella dei tagli, del contenimento, e dovremo vedere come questa poi si sposa anche col federalismo fiscale, che è un sistema che, così come è stato dichiarato, è un sistema virtuoso che riavvicina i cittadini al tracciato delle spese che si fanno a livello locale, dovrebbe portare a un abbassamento della pressione fiscale. Questa è una partita vera che secondo me si apre appena dopo il varo del Consiglio dei Ministri della manovra. Ci ha raggiunto Osvaldo Napoli, che è vicepresidente dei deputati PDL, vicepresidente anche vicario dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni. Io comincerei proprio con una domanda a Napoli, come uomo della maggioranza, ma soprattutto anche come vice di Chiamparino, che oggi era impegnato, il presidente dell'ANCI, di dirci un pochino come sta la partita, nel senso che gli enti locali, i comuni, ma e le regioni, in cambio di questi tagli 10 miliardi in 3 anni, che cosa in cambio si vedono offerti dal governo? Innanzitutto non è una questione di dare o di avere, ecco, credo che tutti quanti i comuni, devo anche dirlo in maniera molto chiara, con molto spesso i giornali e i mass media hanno criticato i comuni in questi anni. I comuni in questi anni hanno dato una partecipazione al risanamento della cosa pubblica in maniera fortissima e sono disponibili anche in questa tornata a dare il loro apporto. Quello che noi chiediamo, non vi sono dubbi, davanti a dei tagli notevoli che più o meno corrispondono a 900 milioni per il 2010, a 2 miliardi e 200 milioni nel 2011, a 2 miliardi e 300 milioni, a 3 miliardi e 200 milioni nel 2012, noi chiediamo innanzitutto il ritorno dei 500 milioni. Aspetti, questa è la parte comunale a cui si aggiunge quella delle regioni, perché sennò poi gli ascoltatori non tornano ai conti. Certamente, no, questo qua è soltanto comunale, chiarisco bene, soltanto comunale. Non è regioni questo, questi dati che io gli ho dato corrispondono soltanto ai comuni. Quindi noi richiediamo i 500 milioni indietro, che sono 300 di mancati trasferimenti e 200 sul fondo sociale. Chiediamo una rivisitazione per quanto riguarda il patto di stabilità, certamente probabilmente a saldi invariati, ma io personalmente, qua mi espongo io personalmente, io non sono d'accordo su quello che leggo oggi, e lo dirò questa mattina alle 10 al ministro Tremonti, nel quello di sanzionare i sindaci in maniera forte, addirittura con la ineleggibilità nei confronti di sindaci che sono usciti fuori dal patto di stabilità, usando soldi propri per mettere a norma, faccio un esempio molto chiaro, le scuole antisismiche. E voglio dire, quella è la capacità di buona amministrazione. Napoli, posso dire una cosa? Perché io questa cosa la seguo come parecchi colleghi, tutti le testate, però siccome colpiva molto negli ultimi anni che vi fosse per le norme del patto di stabilità che non si potessero utilizzare i residui per opere di comuni che avevano dei bilanci virtuosi, questo nel nord se ne è molto parlato, ma non riguarda solo il nord, è una condizione comune, quindi ce ne siamo tutti molto occupati di questa cosa. Spesso abbiamo visto però, spesso, io non dico sempre, non voglio fare la proporzione, però spesso poi mi è capitato di vedere che in realtà in queste condizioni vi era un numero minore rispetto al totale di amministrazioni e sindaci che chiedevano di essere esonerati dal rispetto del patto di stabilità. Cioè io sono andato a vedermi tutti quelli che hanno fatto, per esempio, che hanno marciato nel nord, diciamo che 1 su 2 era in queste condizioni. Lo dico perché capisco i limiti del patto di stabilità, però insomma questo che lei cita e che noi abbiamo scritto per 1 anno e mezzo è un esempio presente, sì, ma forse non così diffuso come viene detto. Accetta questo tipo di obiezione? Dottor Giannini, io sono perfettamente... No, perché altrimenti, credo che in Parlamento tutto ciò che riguarda l'ineleggibilità automatica non passa. Cosa vuol dire marciato? Le chiedo scusa il termine, cioè io capisco cosa vuol dire marciato, ma cosa vuol dire marciato? Intendevo la manifestazione che si è tenuta coordinata da... sindaci della Lega che chiedevano questo, ecco. No, allora ci siamo già capiti. Ascolti, il mio problema, e lo ripeto, è una mia battaglia anche personale, è bisogna andare a guardare comune per comune. Vi sono dei comuni in cui i sindaci hanno scelto deliberatamente di uscire fuori del patto di stabilità usando dei soldi propri per mettere a norma rispetto all'antisismica delle scuole. Vabbè, ed è specifico. Vabbè. Allora io voglio sfidare chiunque, mi scusi se faccio il termine, anche lei a dire preferisco mettere, voglio dire, io credo che il problema del patto di stabilità sia andare ad vedere anche questo aspetto, perché rispetto, mi scusi, io mi chiamo Napoli ma sono di Torino, mi rispetto quello che vedo in molti paesi, in molti comuni del sud, che allora cos'è? Abbiamo salvato Catania, qui le abbiamo dato dei soldi, mi scusi, ho il coraggio di dirlo, salviamo continuamente Roma ogni anno dando Bravo, perché poi le eccezioni sono state solo per il centro-sud di Tremonti, Come faccio ad andare da un sindaco a dirle io ti elimino perché tu sei uscito dal patto di stabilità, mentre invece salvo Roma, Catania, Palermo, Napoli e così, al di là dei colori di centrodestra o di centrosinistra. Va bene, agli atti, Napoli, se può rimanere con noi, resti con noi. Io sono a favore delle norme automatiche di ineleggibilità, che secondo me in Parlamento non passeranno, perché lo voglio vedere il politico che dice chi sfora la sanità va automaticamente a casa. Difendo con le unghie e con i denti questa che mi sembra una delle cose positive di questa roba, accetto scommessa se passa in Parlamento. Parlamentare, dateci questa bella prova. Non fateci leggere che componenti del centrodestra non volevano la contribuzione straordinaria di sostegno dei ministeriali oltre gli 80.000 euro, perché non so in base a cosa ricordate di aver preso i voti nel centrodestra se dite una cosa simile. Opinione personale. Fabrizio da Pistoia, prego Fabrizio. Buongiorno, senta, io volevo parlare di Tremonti che finalmente si è svegliato. Questa manovra che sta facendo adesso la doveva fare nel 2001 appena insediato, secondo me ovviamente, e volevo sapere cosa pensa lei, in quanto invece ci hanno promesso 6 o 7 volte la riduzione dell'IRAP. Bravo. Poi ci hanno promesso l'aliquota doppia al 22 e al 32, che era un libro dei sogni che si sapeva benissimo. Non era un libro dei sogni, però ce l'hanno promessa, continui. Ce l'hanno promesso, poi hanno ridotto l'ICI, che hanno buttato via 4 miliardi per ridurre l'ICI ai ricchi, perché quella dei poveri... Prima casa, su questo lo correggo. L'aveva già ridotta il governo Prodi. Del 40% lo hanno fatto l'integrale, vado avanti perché non possiamo fare l'elenco di 2 anni. No, infatti volevo arrivare al punto. Allora, poi l'apoteosi della schifezza, come direbbe Lino Banfi, l'ha raggiunta nel 2004 quando vendette i palazzi dello Stato. Va bene, ma lei si ferma al passato, la manovra di oggi abbiamo capito. Lei è critico di Tremonti, perfetto. Volevo sapere se, malgrado le critiche, gli piace oppure no? Gli piace questa? No, è andato via, non vi sa dire, sì o no, quella di oggi le piace o le dispiace? Sì, però perfetto. La doveva fare nel 2001. Capito Fabrizio, grazie. Abbiamo ancora Andrea da Roma, forza in fretta Andrea, come la pensa lei? Buongiorno Giannino, io volevo chiedermi, appunto mi ha preceduto Fabrizio, volevo dire più o meno la stessa cosa, cioè nel senso che per 2 anni e mezzo, quasi 3 ormai siamo andati avanti a crisi inesistente frutto del pessimismo degli economisti, invece adesso ci ritroviamo con 25 miliardi. Guardi che Tremonti diceva che gli economisti non erano stati bravi a prevederla, non ha mai detto che è frutto degli economisti. Leggete un po' meno giornali tossici, questa è la mia opinione. Non difendo Tremonti, molti nel centrodestra continuano a dirlo ancora adesso, forse anche il Premier. Tremonti il Premier in realtà... sicuramente. Ecco, io metto i puntini sugli i, perché non tocca a me dare giudizi politici, ma semplicemente dire che Tremonti è accusato da molti dei suoi stessi colleghi di maggioranza di essere troppo pessimista, magari per mettere fiori in fascina per il federalismo fiscale invece che per dare risposte ai mercati. Eccoci tornati in studio, se volete avere un'idea di quanto in realtà la forbice sia un pochino ancora ampia, vedremo poi in Consiglio dei Ministri e dopo nella votazione parlamentare. Un consiglio, leggete per esempio la risposta un po' piccata di Renato Brunetta oggi sul Corriere della Sera ai numeri che attestavano, graduatorio Ox alla mano, quanto il settore pubblico avesse avuto aumenti reali rispetto, maggiori non solo al privato ma maggiori anche alla maggior parte degli altri paesi nostri competitor. Oggi Renato Brunetta risponde a Sergio Rizzo, che aveva messo in fila quei numeri ieri, dicendo no, non è vero, l'Istat dice che non è così assolutamente, noi siamo nella media dell'area euro. Come sempre in Italia è molto difficile mettersi d'accordo sulle cifre, io ovviamente difendo anch'io quelle di contabilità nazionale, però poi le graduatorie internazionali sono quelle in base ai quali i mercati danno giudizio. Su questo la risposta di Rizzo non è sbagliata, ma questo per capire che le tensioni ci sono state e bisognerà vedere come sono risolte davvero per gli interventi che riguardano il contributo chiesto al comparto dei pubblici dipendenti con questa manovra. Qualche ascoltatore ancora? Iniziamo con Adriano. Adriano da Verona, come la pensa lei? Gli piace questo intervento per come l'ha letto sui giornali? Sì, mi, pi- piace anche la radio in quanto la seguo quotidianamente. La mia domanda che mi sono posto, leggendo il giornale stamattina, ma avevo letto anche il libro, della differenza chiaramente di tassazione che c'è tra l'Alta Italia e il Bassa Italia. Allora, la domanda che mi sono fatto io, ma chi è di dovere fare dei controlli, finanza, tributaria, non lo so. Non mi si dica che è difficile quando parliamo dell'85% di evasione trovare gli evasori. Perché non vengono fatti? È più facile non trovarli, per certi versi. Ecco, la mia domanda era questa che mi sono posto, dottor Giarino. Guardi, io le do una risposta breve, perché non spetta a me dare queste risposte. Ci sono 4, 5, 6 regioni italiane in cui sul totale delle imposte, e in particolare, come c'è dall'IVA, che è quella che pesa tra i 40 e i 50 miliardi sui 100, 110 a seconda dei conti, del totale del gettito che viene meno per l'evasione del nostro paese, sono concentrati in aree che si conoscono benissimo, dove la percentuale di evasione supera, l'ambisce o supera il 70%. Questa è la mala realtà, e noi stiamo parlando di Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, per essere chiari, e Sicilia. Queste sono le regioni in cui notoriamente qualunque serio studio nazionale o internazionale allinea le percentuali di questo tipo qua. In quel caso, la più elevata evasione sulle imposte fondamentali, indirette e dirette, la più elevata evasione nel settore dei contributi relativi al lavoro, la più elevata elusione per quello che riguarda i redditi catastali, gli immobili e quindi gli immobili fantasma, quelli che non risultano che sono accatastati con redditi totalmente diversi rispetto a quelli reali, risponde a una funzione, e questo è il cuore del perché poi si litiga sul federalismo: la funzione di procedere a una massiccia integrazione del basso reddito dichiarato disponibile di quelle aree. Io ricordo a tutti che sulle 40 milioni di posizioni fiscali 2008, reddito medio dichiarato agli italiani 18.800 euro, la realtà è spezzata in due, ci sono tutte le regioni del nord ben sopra i 20.000 euro e ci sono queste 5 regioni che vi ho detto che sono sotto i 15.000 euro. Allora, l'integrazione attraverso evasione, elusione e attraverso una maggiore spesa pubblica pro capite rispetto a qualità del servizio offerto e quindi a parità di prelievo serve a integrare il basso reddito disponibile là. La risposta del governo è: comuni, datevi da fare, tiratevi sulle maniche, tutto ciò che raggranellerete in più un terzo vi resterà in tasca, e siccome il più è da recuperare al sud, più risorse al sud, così funziona? Boh, io non lo so, perché bisogna mettere tra il dare e l'avere. Se al politico conviene di più rompere le scatole all'80% che lì è fuori dal rispetto della legge fiscale contributiva, accontentando quindi il 20% e puntando su quel 20% per le elezioni, questa è la proporzione. Vediamo nel sud come scatta. È un po' razzista il mio ragionamento? Non credo, non c'entra niente il razzismo, c'entra il fatto che lì c'è una bassa propensione spontaneità perché c'è un'economia informale che è più efficace di quello dello Stato nel far rispettare la legge. Questo è il punto. Abbiamo Giorgio Santini collegato con noi, segretario confederale della CISL. Buongiorno Santini, le chiedo, per la parte del pubblico impiego, per la parte del reddito dipendente, questa misura è equa, come si è augurato ieri il capo dello Stato, per quello che ne avete capito fino ad oggi, oppure no? Intanto buongiorno agli ascoltatori. Ma noi diciamo che l'equità la misuriamo in rapporto anche alle altre misure che ci saranno. Dicevo il complesso della manovra e non questo. Sì, noi abbiamo dato una disponibilità ad assumerci delle responsabilità, quindi significa anche a misurarci con questo tema del rinvio, del blocco per 3 anni dei contratti. Naturalmente è molto importante che ci siano, adesso si parlava di evasione fiscale, le misure forti, diciamo nitide in materia di evasione fiscale, come è molto importante anche che vengano ridotte questi sprechi, soprattutto diciamo tutta quella parte della pubblica amministrazione e anche dei costi tra virgolette delle istituzioni politiche o collegate, che obiettivamente sono molto alte. Quindi il giudizio noi lo daremo se c'è questo equilibrio. Non c'è da parte nostra indisponibilità o chiusura pregiudiziale, la manovra è necessaria, come sappiamo, per tutti i motivi che conosciamo. C'è la grande attenzione a fare in modo che finalmente, attraverso questa consapevolezza di rigore, si ponga anche mano a queste strutture, a queste mancanze di equità di cui abbiamo parlato. Ripeto, partiamo dall'evasione fiscale perché è l'elemento sul quale si gioca anche il valore simbolico dell'equità, oltre che quello tremendamente pratico. Vedremo se ci sono queste cose, c'è una disponibilità a sostenere, diciamo, le ragioni di una manovra equilibrata, rigorosa, ma socialmente equilibrata. Santini, due domande secche: favorevole o meno al contributo per i dipendenti pubblici, i manager che guadagnano più di 80.000 euro? Favorevole o contrario alla misura di inasprimento fiscale per le stock option nel settore privato e imprese finanziarie? Favorevole per entrambi. Mi sembra che siano due cose che in qualche maniera riequilibrano. Non ci si piglierà molti soldi, ma è il segno che insomma ce n'è per tutti. No, hanno un valore, diciamo, di natura appunto di equità, cioè si dà un segno che si comincia non solo dal basso, ma si comincia e si opera anche in alto, sia nel manager, tra i manager pubblici che tra quelli privati, e tra quelli anche che in qualche modo hanno in qualche maniera fatto anche leva su modalità speculative e altro, insomma, adesso è un discorso diverso. Certo. Grazie Santini. Emiliano da Bologna, che impressione ha da quello che ha capito sui giornali, Emiliano, questo quadro di misure giuste, necessarie, tardive? Tremonti esagera, invece Tremonti è bravo e i suoi colleghi che storcono la bocca non capiscono quello che bisogna fare. Come la pensa Emiliano? Necessarie, certo, la condizione dei nostri conti non è certo in discussione, siamo con i conti messi peggio sul mercato, credo, a parte Stati Uniti, in tutto il mondo. Sì. Quello che è il dato, secondo me, che esce è nella peggiore delle ipotesi il fallimento della politica fiscale di Tremonti e dei governi Berlusconi, nella migliore delle ipotesi l'incapacità di applicarla. La tracciabilità dei pagamenti era la base della lotta all'evasione fiscale messa in pratica dal ministro Fisco, contro il quale la maggioranza ha fatto una campagna. Quindi Emiliano, lei dice che in realtà Berlusconi ha ragione quando storce il muso, almeno abbiamo letto. Ha ragione perché dice: oh, tu mi metti in contraddizione politico con i voti che ho preso con quella parte di italiani a cui abbiamo detto Fisco cattivo, noi buoni. La manifestazione delle 67 nuove tasse di Berlusconi con le facce a un Fisco con i denti da vampiro, se adesso pensiamo che si introduce la tracciabilità dei pagamenti, fa un po' sorridere. Va bene, come Emiliano. Fa un po' sorridere il taglio quanti sono? 7 miliardi di trasferimenti agli enti locali? Sì. E cosa faranno gli enti locali? Nel senso lì, cosa faranno? Gli enti locali dovranno ridurre le proprie dotazioni di spesa, questo è il punto. Cioè, io vi ricordo che nel decennio precedente agli ultimi 2 anni di crisi, anzi negli 8 anni precedenti ai 2 anni di crisi, l'aumento di spesa pubblica corrente nel nostro paese, che è aumentato di più di 2 punti di PIL, mentre la Germania lo riduceva di più di 4 punti di PIL, è al 37-38% annidato rispetto a quanto si spendeva 8 anni prima, nel 2000, al centro, nelle amministrazioni centrali, che però sono quelle più tagliate e ritagliate, e ancora adesso verranno ritagliate le dotazioni in termini lineari dei ministeri, infatti vedremo, ci saranno proteste. Ma per l'80% è cresciuta la spesa invece nelle autonomie, comuni e regioni, e questo è un problema che tutti quanti sfuggono, eludono. È vero che non c'è corrispettivo rispetto alle risorse proprie, però il più della spesa pubblica fuori controllo è nelle autonomie, questo è il punto di fondo. Come, cosa faranno? Devono spendere di meno, le regioni spendono pacchi di quattrini, pacchi, miliardi di euro, in maniera secondo me un po' discutibile, spesso e volentieri. E Gianluca dalla provincia di Treviso, come la pensa Gianluca? Sì, buongiorno, io voglio portare la mia esperienza come amministratore di un piccolo comune. Io sono assessore al bilancio, eletto da circa un anno in una lista civica. In regola col patto di stabilità interno oppure no? No, noi non dobbiamo sottostare al patto di stabilità in quanto la nostra popolazione è inferiore ai 5.000 abitanti. Okay. In ogni caso noi ci parametriamo lo stesso per un motivo anche di sfida nostra personale, e siamo sempre entro i parametri del patto di stabilità, nonostante non siamo soggetti ai termini di legge. Ma quello che voglio dire io, il mio stupore, ma ormai è uno stupore troppo candido, è il fatto che si sia arrivati così tardivamente a queste manovre. Cioè, io le porto l'esperienza, noi stiamo attuando una politica di razionalizzazione di risparmio già da un anno, non paga in termini elettorali. Il problema è che queste persone, se devono guardare solo il consenso elettorale, se ne devono andare a casa. Bisogna lasciare posto dei tecnici che abbiano il coraggio e la competenza di vedere dove si buttano i quattrini, perché l'imperativo nostro è spendere e non spandere, spendere bene. Benissimo, speriamo che il vostro esempio diciamo si estenda sempre più a macchia d'olio. Io sono felice che molti ascoltatori dicano: ma come, ti sei pure tu convertito alla lotta all'evasione? Noi dobbiamo batterci per abbassare le aliquote. Sì, noi continuiamo a rompere le scatole su questo, però io credo che sia lontani il nostro orizzonte della riforma fiscale con le aliquote più basse, quindi bisogna rompere le scatole in senso molto minoritario su questo. Allora, domanda, torniamo ai nostri due giornalisti osservatori più equilibrati rispetto a noi, facciamo una trasmissione un po' più di battaglia. Guido Gentili, chiedo, l'impressione che hai da che a gennaio si è aperta la danza sui mercati è che queste misure che i governi adesso stanno tutti un po' definendo in pochi giorni sul tamburo per evitare di essere messi sotto schiaffo, siano uno stop alla danza dei mercati, oppure bisogna immaginare che siamo davvero entrati in una curva di lungo periodo, per cui magari la crisi dell'euro allontanata con l'euro salvagente due domeniche fa, ma in realtà resta un'incognita pesante per alcuni anni di fronte a noi, che cambia in maniera molto pesante l'orizzonte, diciamo così, dei rapporti anche politici e della credibilità dei maggiori paesi anche dell'euro per alcuni anni. Tu come la pensi? Assolutamente rimane un'incognita. L'euro sappiamo come è stato costruita, è stata un'operazione per certi versi coraggiosa, ma abbiamo, diciamo, siamo partiti da una costruzione monetaria, non abbiamo un'Europa politica propriamente detta, come sappiamo, l'abbiamo veduto tante volte, e non dobbiamo meravigliarci se i mercati rispondono in questo modo, e frettolosamente i governi stanno cercando, anche con grande fatica da parte dell'Europa, di mettere in piedi una governance che in qualche modo riesca a rispondere ai problemi di questo momento. È un'operazione molto difficile, vediamo innanzitutto quelle che sono le difficoltà in un grande paese dell'Europa, nel principale paese europeo, che è la Germania, e quindi secondo me noi dobbiamo guardare molto alla Germania per capire quello che accadrà in Europa nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché è da lì che possono venire secondo me i problemi più grossi, perché l'insofferenza della classe politica tedesca e dell'opinione pubblica tedesca rispetto a un certo tipo di costruzione europea è ormai evidente, così come evidente, ne avete accennato voi prima molto giustamente, parlare per quanto riguarda l'Italia del problema del sud, perché noi abbiamo un pezzo del paese, e cioè tutto il meridione, che è provocatoriamente già fuori dall'Europa. Noi oggi stiamo parlando con qualche accenno retorico spesso dell'unità nazionale, ci prepariamo ai festeggiamenti per i 150 anni, ma dobbiamo considerare che la situazione del sud è una situazione drammatica in termini democratici. Fermo Gentili su questo, che abbiamo ormai irrinunciabile l'appuntamento con le circolazione stradale, formazione strada in diretta. L'ISAE, uno degli enti che verranno sciolti e accorpati, passerà l'Istituto di Sviluppo e Analisi Economica, perderà l'indipendenza, che peraltro era un velo, diciamo così, e quindi va direttamente all'economia, ha rilevato che la fiducia a maggio dei consumatori scende molto, perché l'indice va a 105 rispetto ai 107,9 di aprile, scende nella componente pubblica, meno in quella privata, ma scende molto seccamente per effetto dell'eurocrisi e anche della percezione che l'Italia effettivamente deve darsi da fare. Eccoci tornati in studio. Devo dire che dagli sms c'è una geografia e una forbice molto più ampia direzione rispetto a quello che abbiamo mandato in onda. Moltissimi critici, moltissimi gli arrabbiati dicendo: ma come ci hanno detto che Visco era cattivo, adesso fanno le stesse cose. Moltissimi quelli che rilevano: non si riesce a capire se davvero se c'è il rischio Grecia, come tutto questo era coerente con la solfa che abbiamo sentito, i numeri del professor Fortis tante volte ripetuti, che l'Italia era il paese forte del G20, eccetera eccetera eccetera. Mi pare che in realtà questa manovra avrà un impatto, non so dire come, ma avrà un impatto su come gli italiani guardano a questo governo. Io comunque mi auguro che abbia un impatto sulla consapevolezza della serietà della curva temporale e dell'intensità della crisi europea, che ci accompagnerà secondo me per tempi molto lunghi. Io non do affatto per scontato che l'euro rimarrà come la vera cornice di riferimento per tutti. Condivido quello che ha detto Guido Gentili: le generazioni a comando oggi in Germania non condividono più il complesso di colpa di chi le ha precedute, e chiedono a chi vuole stare nell'euro in maniera che sia uno scudo e non una gabbia di rispettare rigore nei conti pubblici, competitività e produttività in quelli privati, e chi non ci riesce, fatti suoi. Ecco, a tutti coloro che dicono Europa politica, i grandi editorialisti, Barbara Spinelli, che scrivono tonnellate di carta su questo, i tedeschi dicono: alt! Nella nostra Costituzione l'Europa politica è incompatibile. Ecco, questa secondo me è una realtà di cui bisogna rendersi ben conto, e che disegna un po' di problemi per chi ha spesa corrente a 53 punti di PIL, spesa pubblica totale, non solo corrente, nel nostro paese. Questa è la mia opinione. Maurizio da Roma, come la pensa questa manovra complessivamente? Le piace, le dispiace? Guardi, io penso che si dovrebbe far pagare a chi non paga, a chi ha evaso le tasse, però diminuendole queste tasse si induce a chi non paga le tasse a pagarle. Ecco. Di conseguenza, e qui la diminuzione non c'è però. Come? Qui la diminuzione non c'è, ecco. Ha capito, ecco, questo io sono... Io grazie Maurizio, la penso come lei. Moreno da Milano, poi torniamo ai nostri ospiti. Moreno da Milano, flash da parte sua, le piace o non le piace? Qual è il colore, il sapore prevalente di questa manovra annunciata per come l'ha capita? Non mi piace assolutamente, da Tremonti mi aspettavo di qualcosa di più creativo e di più coraggioso. Dal mio osservatorio vedo una molta difficoltà e soprattutto vedo che si sposta da destra a sinistra senza creare nessun meccanismo virtuoso per cui insomma ci sia un minimo di crescita. Una cosa sola, non credo che sia scandaloso, e lo scudo l'ha dimostrato in questi anni, prevedere una sorta di aliquota inversamente proporzionale per i grossi redditi. Sono d'accordo su questo, ci porterebbe lontano questo discorso, lo approfondiremo nei prossimi giorni. Ecco, questo è il tipo di reazioni, secondo me, minoritarie, ma che mi danno speranza, per così dire. Ci siamo capiti. Allora, abbiamo con noi Sebastiano Venner, che è vicepresidente di Lega Ambiente. Un minuto e mezzo, mi rendo conto i tempi tra l'altro però sono questi, dedicati a questa regolarizzazione delle 2 milioni di unità immobiliari che, malgrado l'ultimo condono non applicato in Campania, scopriamo essere ancora fuori dal catasto o regolarmente disallineati rispetto ai redditi presunti catastali. Come avverrà questo meccanismo? È un condono o non è un condono? Come l'ha capito Lega Ambiente? Ma sì, si può chiamare in tutti i modi possibili, però insomma alla fine mi pare di capire che dietro ci sia un condono, nel senso che l'intenzione è anche legittima, cioè far emergere dal sommerso parte di immobili che non sono stati accatastati nel corso di questi anni e che erano sfuggiti quindi alla legalità. Ora, è probabile che alcuni di questi immobili non siano abusivi e quindi è giusto che emergano e che ci si paghino sopra le tasse. Il dramma è se si vuole poi legittimare tanta parte di questi immobili che sicuramente saranno abusivi. È un modo di fare cassa, secondo noi, un po' becero, peraltro anche poco lungimirante, perché come ci hanno insegnato i condoni precedenti, si incassa uno subito, se si incassa, perché poi come dire, abbiamo anche visto che si incassa molto meno di quello che si presume, ma in realtà si scarica sugli enti locali gli oneri di urbanizzazione che spesso sono 5, 6, 7 volte più alti di quello che si è incassato. Quindi i comuni diventeranno ancora più poveri, ancora più disastrati. Bene, giudizio critico, preventivo di Legambiente. Io non riesco mai a capire in Italia quale possa essere lo strumento, in realtà, anche qui, se non ho un aspetto più friendly nei confronti del mattone fuori posto. Però devo dire la verità che in larghe parti d'Italia il mattone fuori posto ha reso così osceno il landscape, come si dice in inglese, che veramente c'è di che usare i bombardieri, ma questa è la mia opinione personale. Barbera, chiudiamo con lei. Cosa si aspetta dal punto di vista dell'iter parlamentare e delle conseguenze politiche, al di là dell'approvazione o meno della manovra così come esce dal Consiglio dei Ministri di oggi, di qui alla finanziaria, 6 mesi, c'è la consapevolezza che prevale, o per come lei, battendo il Parlamento giorno per giorno su questi provvedimenti di politica economica e conoscendo bene le pieghe, gli anfratti delle opinioni diverse al di là della comune appartenenza alla PDL, cosa ci aspetta nei prossimi 6 mesi secondo lei? La risposta al Tremonti che fa passare tempi e modi della sua manovra sarà una risposta soft o sarà una risposta che ci riserva sorprese? Ma voglio augurarmi che sia una risposta soft, se non altro perché in questo momento non c'è Tremonti che tenga, non c'è strategia politica, retroscena che tenga, insomma come avete ben raccontato questa manovra è anzitutto necessitata dall'esterno, e questa è una cosa di cui è bene che siamo tutti consapevoli, perché io credo che dell'Europa nei primi anni di vigenza dell'euro abbiamo visto i vantaggi, adesso bisogna che cominciare a comprare qualche prezzo a questo euro. Non si possono avere solo i vantaggi, e lo scopriamo tutti in una volta, di botto e in maniera pesante. È bene che anche il Paese, secondo me, se ne renda conto. Spero che nel Parlamento così sia, non è detto che ciò avvenga. In questo caso, per quanto riguarda il provvedimento, non è un caso, credo che Tremonti abbia scelto la strada di un decreto e basta, non c'è nemmeno un disegno di legge, come inizialmente invece sembrava dovesse essere, e io credo perché lui non voglia che il pacchetto passi così com'è, voglia in qualche modo blindarlo preventivamente per evitare blitz. Non c'è dubbio che per la maggioranza sarà molto dura leggere i prossimi mesi. Tu prima citavi i dati dell'ISAE, fra quei dati dell'ISAE che sono usciti poco fa c'è anche l'impennata dei prezzi. Noi ci andiamo verso una manovra molto dura, forse un pochino recessiva, in uno stato di inflazione crescente. Siamo in una fase molto complicata. Io credo che la politica debba rendersene conto, ci vuole senso di responsabilità da parte della politica e da parte anche dei cittadini, perché torno a bomba un attimo sulla questione dei condoni. Si parla tanto di questa storia dei condoni, se i condoni sono giusti o non sono giusti, ma i condoni, non ci dimentichiamo, li si fa perché la gente non rispetta le regole. Perfetto, esatto, perché poi alla fine c'è non rispetta le regole, su questo ti devo interrompere. Su questo io ringrazio Alessandro Barbera e Guido Gentili per averci accompagnato con pazienza in questa scoppiettante trasmissione, che è solo l'inizio di una serie di riflessioni che faremo nei prossimi giorni. Tra due giorni c'è anche l'assemblea di Confindustria, sarà una grande reazione alla manovra di questa sera. Dovremo inevitabilmente continuare ad approfondire in queste mattinate con un occhio ai mercati finanziari che continuano ad andare in maniera preoccupante. Ringrazio tutti gli altri ospiti: Venere di Legambiente, Osvaldo Napoli, vicepresidente dell'ANCI, Giorgio Santini, segretario confederale della CISL. Ringrazio regia Fabio Cantadori, Alessandro Marco Tunni in redazione. Linea al Giornale Radio, appuntamento a domani.